Blecco, blecco! C'è nessuno in ascolto! Blecco, blecco! Per il bella ci sei! Non ti ricevo! Aumenta la potenza! Gente mala, ci siete! Ma chi è gente mala? Quindi la sei tu, ora vuol dire che sei tu! No, era al telefono! Però stavo acceso l'avevo. E sono appena arrivato. Era al telefono e era appena acceso. E ho sentito a te. Perché ti ho sentito arrivando? No, caspita, ero. Era al telefono con mia cugina. Ha già detto, mi che sono birbante altrimenti. No, chiata, birbante. Ma vabbè, da un poco. Sto capo furene. E Ciampei non è entrato. Ciampei? Ah, cioè, non è gli due Ciampei di una volta, no? No, Ciampei che sono di Giusso. Ah, è vero che è di Giusso. Ma che venerà uno buono di Sacciari? Già me lo ricordo, ma lui c'aveva prima un altro nome, un attimo, da voi c'è un buccio Ciampei. Prima entrava con un altro. Oh, non lo so, non lo so se lo conosco. No, non penso, non sta uscendo. No? Ma lui non sta uscendo? C'ha problemi alle gambe, non riesce a camminare bene. Ma quale, quello di una volta o questo qua? No, questo di adesso. Oh, allora se c'ha problemi alle gambe. Uiuia. Purtroppo l'hanno operato e hanno messo la gabbia qua a Sassari, ma hanno sbagliato e da quando l'hanno buttato vista la gabbia non ha più camminato. Certo, ma io che non ne so ne fa, non ne sanno fare qua operazioni da rovineggiani. Io infatti gli ho consigliato di andare a Bologna. Di andare fuori bisogna andare a operarsi per colpa cosa. Per le gambe e cose va benissimo. Se no per il resto bisogna andare a Cagliari. No, per le gambe. Allora io ho un amico lo stesso che l'ha fatta questa operazione. A Bologna gli è andata bene. Cammina tranquillo. Poi io un altro conoscente che gli hanno fatto il trapianto a Bologna, il trapianto del fegato, e grazie a Dio è vivo. C'era che a mio padre lo volevano operare al fegato qua, e mio padre ha detto no, fa cosa da andammini, ma non mi ducchiti, l'ha detto. Aspetta, se dai da qua, ma per giù più, parlando che faccio già mandare te. Se me n'hanno avuto che già sto come. Così ha fatto. Da 2 mesi se ne è andato. È la sua decisione. Vuol dire che non se la sentiva. Ma non voleva essere più toccato né nulla. Ha deciso di andarsi lì. All'ospedale, mio frate e due adesso me lo porto a casa io, ha detto si va arrivi e così è stato, è durato 3 dì e se ne è andato. Ma cosa va bene? Che mani buffe? E il fegato è partito, prendeva le pastiglie per la pressione, prendeva. E io gli avevo detto, me non prendere altre pastiglie, se prendi questa non prendere altre pastiglie. L'aspirina, ha detto, non prendere l'aspirina, perché ogni tanto va freddo. Se prendi l'aspirina, non prendere la pastiglia a pressione. Allora ci ho pigliato, prima che dà la pressione un manzano. Ma già se pigliare l'aspirina, arrivederci, ha detto arrivederci fegato. Ma l'aspirina è una cosa. Paro freddo si rabbigliava, mi passava il freddo. Non ci credo, dai. Così mi diceva lui, quando si prendeva l'aspirina, gli passava il freddo, gli passava, che non era tremurita. Era sempre tempo di una manta, è nato. dice che vaggi di Dio, vaggi tu vai con che dice e ti metto la copertaglia e poi chiudo. Se ci gocchi e te ne andi a domani a mangiare. Oh, pastiglia così, se prendi una non prendi l'altra. A volte mi capiva. Poi lì ha deciso di pigliarsi un mangiare, ha pigliato quella della pressione. A volte si è pigliato la aspirina. E si è cribato un piccato. L'aspirina è micidiale. È quella che l'ha fatto, che l'ha rovinato il fegato. Infatti ha già avuto la casa tutta piena di sangue, nel bagno, in cucina, nel soggiorno, nell'ambito, e ti ogni rogo a giubile. Poi dopo chiamato l'ambulanza, è venuta subito, hanno preso, hanno controllato la dottoressa, gli hanno bloccato questa cosa, gli hanno dato la flebo, gli hanno bloccato e l'hanno portato in ospedale. Quando si è arrivato e l'hanno ricoverato. È un'emorragia interna. Emorragia interna. E ha detto arrivederci il fegato. Io se volevo glielo donavo un pezzo. No, Edu, ha detto no, non mi operaggio. Va bene, non ti operare. Arrivederci. Ecco, a quell'età lì ci sono delle scale che rispettano, prima ci sono i più giovani, poi quelli di mezza età e poi gli anziani, capito? E anche quando arrivi in donazione il fegato non è così facile. Io gli avevo detto se volevo andare fuori, e gli avevo detto io c'avevo un amico che telefonava e gli faceva avere il posto dove è tutto a Bologna, che lì lo stesso operavano bene. Sono a Genova. Le pastine sono micidiali, ti fanno venire le ulcere, mamma si era preso le ulcere dalle pastiglie che prendeva. Lui c'aveva, l'unica cosa che c'aveva era quella della pressione, e un'altra bottiglia va via, che quella la prendeva, ogni tanto la prendeva, ogni settimana la doveva prendere. Ma mamma era diabetica, faceva l'insulina, prendeva la calcitonina per le ossa, perché, come si dice, se basta che si batteva appena appena le si rompeva l'osso, perché non c'era più cartilagine. Un'altra malattia vera, certo. E quello è dipeso tutto dal diabete, dipeso. Ma le donne anche dopo la menopausa riviene questa cosa, capito? L'osteoporosi si chiama. Sì, anche per una malattia vera. Ma mia madre, poi c'avevo mia madre prima di ammalarsi lui. La pastiglia dell'asma prendeva mio padre, ecco quale pastiglia prendeva, però quella la prendeva una volta alla settimana. E poi c'era mia madre che faceva la dialisi, infatti a Ozieri va un anno di raggio accompagnata da io. Perché a Sassari non la faceva? Non c'era posto qua a Sassari, poi a fine anno, a dicembre, veniva già rigata dai nomi. E la gente, guardi, non ce la faccio più io a viaggiare. Quindi, o ve la tenete qua, o ve la tenete per forza qua, a giudizio. 2 anni è durata, facendo la dialisi. Io conoscevo una donna a Porto Dottore che faceva la dialisi, era tutta piena di bumbuglioni, di ribrazzi. E poi gli hanno fatto il trapianto e ha detto che è rivissuta da quando gli hanno fatto il trapianto. E mia madre lo stesso mi stava aspettando il rene. C'era questo ragazzo qua che gli aveva donato, che è Musu, gli aveva donato un rene, ecco, e toccava a mia madre. Invece da mia madre hanno dato a un ragazzo di 12 anni, l'hanno dato. E mia madre ha dovuto aspettare e torna. Perché te l'ho detto, c'è questa scala, no? Prima ci sono i ragazzi giovani, poi ci sono quelli di mezza età e poi ci sono gli anziani, capito? Devono rispettare questa scala qua. Se ci sono, per dire, dei giovani, lo danno a loro. No, non ci aveva, quando è caduta malata, è coso, si è bloccato il rene, a 68 anni ci aveva, poi più 10 anni ha fatto 71, a 78 anni se ne è andata, e mio padre la stessa cosa, a 78 anni se ne sono andate tutte e due. No, mamma a 72. Mio padre a 96. A mio padre se ne sono andata a 78 anni, se ne sono andata tutte e due. Ci sarà anche la voce. Ha detto, va. Chissà. Chissà così. E adesso la vita è più lunga. E magari si dura di più. Se non ti ammali, se non hai malattie gravi, capito? Duri di più. Speriamo che non ne venga né altro. Sì, ti abbassa isso che ti porta tutte le malattie possibili e immaginabili, ti abbassa. E vabbè, io gioco con le pastiglie. Cerca di riannodare. Certo, con le pastiglie si vive più a lungo. Si vive, però bisogna vederlo. È il contrario. Niente. Chissà, bisogna acciarsi all'inizio di sopra. Allora tutti cominciano con le pastiglie. Tu quanti anni ce l'hai il diabete? Dal 2011. Ecco, non è che ce l'hai tanti anni, dai. Io che ce l'ho un bel po' di anni, e praticamente faccio l'insulina. Prima prendevo le pastiglie, dopo non ce la fanno più le pastiglie, devi fare l'insulina. E così. Ma fino adesso c'è più di 134-135, non sale da me. Più di quello non la faccio salire. E allora va bene. Infatti me l'ha chiesto la dottoressa, ma guardate il coso. Se tutti vanno bene così, che sono a posto. Poi c'è mio figlio che si lascia a 170-180, gli sale. Ha detto, ma come fai a farla salire così? Ma un bel di rotti si mangiando. No, io non ne sto mangiando molto. Allora ha detto, cerca di mullarli la cioccolata. No, allora a me il dottore mio me l'ha spiegato, il mio diabetologo, mi ha detto che ci sono dei casi che anche se mangi poco ti sale lo stesso. No, io mangio. Eppure quando me la misuro, oggi ce l'avevo, stamattina me l'ho misurata e ce l'avevo a 119. Io stamattina l'ho avuta a 72. Senti, che farada, è un bel di voce, a me pure mi si abbassa, il massimo che mi è arrivata è 78, mi è scesa. Mi sentivo questa tremurida, questa cacchio c'ho, mi sono la glicemia, era a 72, era già attaccata, a mangiare l'ho fatta salire fino a 125. No, a me quando mi si abbassa vuol dire che mi sta chiedendo di mangiare qualche panino o qualche cosa. Te ne accorgi, a chi si viene a casa di tutto atturato, non comprendi nulla. Non comprendi manco chi che si vede. E invece se ce l'hai bassa ti piglia la tribunita. Ah, io la numera nauda per la via a 255 ce l'avevo, quando me l'hanno trovata. Perché tu non sapendo di averlo mangiavi di tutto e quindi ti è salito. Niente, sei alzata. Io sono andata a accompagnare la mia figlia perché era incinta e doveva fare il controllo del diabete, doveva fare. E prima ha fatto il diabete. Poi il dottore mi dice, venga che gliela controlliamo anche a lei. Ah no, io non ne ho bisogno, venga. Lei non lo sa se ne ha bisogno. Ah, me la uda 250 anni come la uda. Certo, a vedere se ne aveva bisogno. Mi ha fatto un voglio tutto quanto, mi ha dato la pastiglia direttamente. Ti hanno fatto la curva da carico? mi ha fatto anche la curva a carico, mi ha fatto rimanere un'ora in Kiwi, poi mi ha fatto vedere la cosa bianca, mi ha schifo, ma cari dai, facciamo il cazzo d'uscio. Un'ora, a me 4 ore. 4 ore, ogni mezz'ora vi facevano bere il glucosio, quindi anche il farinizio ti piace fare Coca-Cola. Da voi però ti nausea, ogni mezz'ora vi facevano bere il glucosio e mi facevano il prelievo, per vedere quanto, dopo mezz'ora mi facevano il prelievo. E hanno constatato che il pancreas non annullava gli zuccheri. No, a me mi ha fatto bere un bicchierino di questo coso bianco, con lo stomaco vuoto. Mi ha fatto bere la cosa bianca, ma già mai, non è grasso tutto. E ha visto che la reazione di vomitare era così, allora no, non me l'ha fatta bere tutta. Ha visto che reagivo con il vomito. Dove in bagno, ha detto sì, no, è a posto di cose, basta solo la pastiglia, boh, è malato la pastiglia, mi ha fatto andare a mangiare un panino con il coso, con il prosciutto, ma ci ha mangiato un panino che hanno già durato da voi da un'ora, che hanno già durato, no, 2 ore. Ma sono tornato, ma ho misurato la glicemia e ce l'avevo un po' alta, non molto, un po' alta. Dice va benissimo così. Ho mandato la pastiglia da prendere. Ho preso la pastiglia, cioè, ho continuato come mi ha segnato le pastiglie e ho continuato ad andare così. Poi a mano a mano mi danno i giambardi. Io ti auguro di avere sempre le pastiglie e basta. Molta gente, anche mamma prendeva le pastiglie all'inizio, lo stesso poi ha dovuto fare l'insulina, ne faccio già 3 come ti riposto io. Aspetta, no, sino adesso ancora sto benissimo, perché a me stamattina era 119, la settimana scorsa ce l'avevo a 106, quando la prima volta che l'ho misurata, poi la notte invece mi si è bloccato l'apparecchio, l'apparecchietto, deve essere che le batterie si sono caricate, le ho messe stamattina 9, l'ho messe. Me l'ho misurato. Vabbè, se non sale tanto va bene, dai. Interessante che non c'è bisbalzi. Bisbalzi è che fanno male. Il massimo che ce l'ho avuto, te l'ho detto, 137, ma non di più. Non di più. Più di tanto non mi sale. Vuol dire che fai da bravo, che mangi poco di tutto. Io mangio, non mangio molto, infatti la dottoressa mi ha detto, dice, caspita, ma cosa gli faccio fare? La dieta gli faccio fare, ma che dieta? Vada così come sta andando. Ma non me ne ha segnato di fare, perché me l'avevano già data da allora, ma l'ha mai data, dice, ma che dieta le devo fare? Mi ha detto 80 grammi di pasta mi aveva segnato, ma dalla prima volta che avevo il coso, ma poi 2 fettine, poi dice, poi me la torre da ciambà e me la minta da pena. Quindi a voi le so come 1200 calorie. Infatti è così. Purtroppo sto andando sempre così. Quando sono a pranzo di Natale, noi mi abbuffano. E a me la sera di Belgi, ma ti ho visto il panettone, mi è giunta la gara di mangiare panettone, quello con la frutta candita, come piace a me, con i canditi e con l'uva passa. In una legge c'è un panettone. No, a me mi dura una gheta, mi dura, anche me ne mangio una vetta io, mia moglie gli mangia un pezzo, io me ne mangio una vetta, perché il pandoro a mezzo di maggio mangiato. No, ma mi piace proprio il panettone tradizionale, quello che va a passare è il canditi, quello pinetta, ma è buono, morbido. Ah, lo sai che quella a me non mi fa nulla. Con i canditi non mi fa nulla quella a me. E prova a mangiarti in uno come ci hai fatto io, una di. Ah, in un addio, a me mi basta una vetta a mezz'ora, boh. Non te ne mangio un bel io. Mi basta una vetta, però piace pure a me, mi mangia a miro. No, io te ne mangio una fetta, boh. A me prima se la mangiavo troppo mi faceva bruciare allo stomaco, questa volta non ha fatto tutto. Prima mi faceva bruciare, invece adesso no. Stavo guardando il televisore affetta per Giovanni di tutto dopo che avevo cenato. Chissà perché prima mettevano l'olio di palma, ma per quello ti faceva bruciore. Ecco cos'hai. E adesso non la metterò più. No, l'hanno tolto fuori, non si può più mettere l'olio di palma. No, l'olio di palma stanno aggiungendo il burro, stanno mettendo a posto dell'olio di palma. Il burro è più vegetale, più buono. È naturale il burro si fa dal grasso animale che c'è del latte. E vabbè. No, comunque ci sono dei biscotti che ce lo contengono ancora l'olio di palma, perché ho preso dei wafer l'altro giorno e c'era scritto con l'olio di palma. La Nutella lo stesso. Ma te lo sai che l'hanno proibito metterlo? Ah, eh? Se vuoi li puoi denunciarmi anche, se ti fa male. Perché loro non ne devono mettere l'olio di palma, perché è stato messo dal governo stesso, è stato fatto eliminare. Allora, con che già arrivata mamma, io poco tempo fa ho preso due pacchi di quei biscotti, perché quando ce l'ho troppo alta la glicemia mi mangio due biscotti di quelli lì e me la metto a posto, capito? E ne ho preso due pacchi, quindi ce ne ho dei wafer tipo wafer sai, ma sono, dai. No, a me me lo faceva, quando c'era a me, prima mettevano l'olio di palma da 5 anni fa, era legge. Mettevano l'olio di palma e mi veniva, il bruciore mi veniva. Sta zitto e non ne mangiavo più le cose. Poi quando ho sentito che non hanno messo più l'olio di palma, ho provato a mangiare e non me ne faceva più bruciore. Ecco cos'era, era l'olio di palma. Dice che fa male l'olio di palma, che è proprio scartato, quando ci sono cose con l'olio di palma la gente lo scarta. Sì, infatti, adesso la legge del governo è di non mettere più nei dolci e altre cose l'olio di palma. E per quello se tu guardi quelle del mulino bianco senza biscotti, senza olio di palma. Ma tutti non lo devono mettere, se non lo devono mettere non lo devono mettere tutti, perché io arrivando, l'uni, devo fare la spesa e controllo invece che i biscotti ce l'hanno ancora, ma penso di sì, perché sono a scaffale, quindi non penso che li raggiano i cavati. Se almeno che l'abbiano dato qualche ordinanza. E anche nella Nutella c'è l'olio di palma, è pure buona la Nutella, a me piace un bel, mamma mia, meglio che non ne compri, perché se no me la sbrano. No, diciamo, a me prima piaceva, ma non mi piace più la Nutella, che sappa cosa, non mi piace più mangiarla. A me migliore invece ogni tanto un cucciare e se la spalma nel pane, se la spalma, ha detto no, male la Nutella tu. Però io ho detto, tu non riesci a farti varare dalla cosa, ma io c'è per esempio alza e la sgrido mi. Perché dalla gravidanza gli è rimasta la glicemia alta. E anche a mamma è successo così. Mamma dopo l'ultima gravidanza che ha avuto gli è rimasto il diabete. E ha dovuto continuare a fare. E poi mi diceva, sono stufa, mi mandano qua, mi mandano là, non ce la faccio più a stare sempre in giro dai medici. Conoscono più a me all'ospedale che i medici, ha detto. Ma infatti va più medicine più di me, va. Sta questo coso qua, con questa siringhetta piccolina, alla pancia, gli fa E io ho aggiunto, sarà io quando la pastiglia per quello. E quello lì mi ha segnato il primo mese per il coso, per il cuore, per far girare le cose nel sangue. Invece poi mi ha segnato la pastiglia. E la pennetta fa, appennare giù io. Sì, la pennetta anche fa. Però c'è un'altra che la fa nella pancia, che ha cambiato adesso. No, si fanno o nella pancia, o nella parte alta del braccio, oppure nelle cosce. Sì, nella pancia se lo fa lì. No, ma ce n'è anche un'altra di quelle piccoline. Per la coagulazione del sangue. Per la coagulazione. Sì, anche quella fa. Io invece prendo la pastiglia. Anche io. Segnando invece che darmi quelle lì. No, c'è una cattolantria di chi su gol, di chi su vialetti. Ci mettono gli adulteri. Usi queste pastiglie qua. Faccio una andata in farmacia e ho usato le pastiglie. Da chi sa di. Poi me le ritiro insieme alle altre pastiglie. Ogni cattola veni su 80. Io adesso in farmacia non vado, mi vado giù a ritirare. Li vado lì mail. Mi preparo le medicine, quando sono pronto vado a ritirare. Io gli do e qua ritiro tutti assieme, anzi due sono da ordinare, sono. Prima ne avvia via, vanno giù una giù da ritirare. E anche io con le iniezioni devo ordinare, perché non ce le hanno, a portata di mano ce l'hanno nel magazzino di Sassari, dell'SL, oppure devono andare a Cagliari a prenderle. No, loro le ordinano e arrivano un giorno sono qua, arrivano in furgone o in aereo, non so, boh. No, il furgone le porta, c'è un ragazzo con il furgone che le porta a casa, è un casino, e se ti dimentichi qualche medicina che devono arrivare, quelle che devono arrivare devi aspettare due giorni. Sì, infatti è così. No, io a mezzogiorno vengo se le prendo, vengo lì domani mattina a ritirarle. Faccio sempre così dalla farmacia. E anche io faccio così, non ci vado mai. Vado lì domani mattina, quando vado a portare il cane, vado col cane e me le ritiro. Infatti, tanto mi dai il bigliettino nel numero, mi dai e vado in domani, a Puglia. Adesso quando devo salire su, mi devo far fare tornare il foglio di queste pastiglie, mi devo far fare. Vabbè. Io quando vado, come la spesa l'ho fatta, cazzo, non più che sono bello di medicina. E pure la giornata buca, di chi si vede i minorini, la giornata buca piena, annaggio. Io faccio anche le iniezioni, immaginate, faccio due tipi di iniezioni, quella notturna e quella di gioco. No, per fortuna non nascio, vedi sì io. Prima me faceva delle cose. Poi avete visto che allora me ne faceva più. E te l'ha fatta all'inizio per abbassarti. No, erano iniezioni che facevo per il coso, per il cuore, facevo prima da tanto tempo fa, no? Ha segnato una scatola, ma con la scatola lì ne ho fatto mi pare tre e poi mi ha detto di non farne più, ha detto va bene così, perché se no mi dovevo bucare sempre la banca. E io via, che se va così. Infatti quella del policlinico me l'ha data a me, si è accorta che c'avevo i battiti veloci e mi ha dato i bacilli per più a prendere queste siringhette piccoline a farmi l'orgo. Poi mi ha detto la cosa, sono andato a controllo due giorni dopo, mi ha controllato, dice aspetta che gli do le pastiglie, che sono meglio le pastiglie di quelle lì. Poi ha fatto tre e buh, ma ogni ha giù più toccato. E adesso come va il cuore? Le ha fatte le visite al cuore? Sì, Sì, a settembre li ho fatti. Allora, discussi d'aula, prego. Se mi ha fatto anche il foglio da portare alla dottoressa, e sempre per le pastiglie. E quindi ce l'hai sempre questa tachicardia? Mi ha rallentato un po' i battiti, però adesso sto anche meglio, perché prima mi veniva l'ansia, mi veniva, ora non mi viene più. Ti manca un po' riesco a fare una cosa del genere, lo so. Poi allora c'hai anche praticamente aritmia cardiaca. Figlia, me l'aveva detto il medico, però no, non molto, no, non ce l'ho molto bene, non ce l'ho molto forte, ce l'ho leggera, leggera. E magari fai battiti normale, poi ne fa uno che fa tutto e poi riprende. Sì, infatti mi ha fatto vedere che c'è un rimbalzo e poi ci rimette a posto. Ma ha fatto vedere nel coso, nel foglio, il medico dice guardi cosa c'ha, gli fa dun, però dopo gli si ritorna normale. Mi ha detto di non correre, di non forzare troppo. Ma tu se vuoi ascoltartelo poi, basta che metti le due dita che ci sono vicino al pollice, le appoggi alla giugulare nel collo e senti i battiti. Non solo da lì, io quando tocco un muscolo, che quando mi fa male, tocco un muscolo, mi sento il battito. E molte volte sento dum, e salta, e si abbassa. E oggi tu già continui ad andare così. Io se no, mi avrà detto invece che hanno dovuto mettere così, pacemaker, hanno dovuto mettere. E io quando lavoravo che ero molto stanco, no? Poi quando mi coricavo mi sentivo il battito anche nelle orecchie, proprio faceva tu, come accelerato. No, io adesso ce l'ho, si può dire che ce l'ho rilassato, secondo me. Cioè i battiti come che sia normale, non ce l'ho più con lo sforzo di prima. Mi ha detto di camminare un bel, però non di correre, mi ha detto, di correre poco. A correre, alla nostra età che corre. Io cammino, sì, passeggio anche un po' a passo svelto, però correre. Allora, se oggi cosa mi è successo? Stavo andando in banca e mi si è accesa la spia delle ruote. Quella che ti insegna che le ruote sono basse. Ci ho guardato il primo commissario che ha già avuto, mi ha fatto misurare la pressione ed era tutta giusta. Mi ha detto che secondo lui è il freddo che ha fatto andare i sensori in tilt. Oh, no, a me io quando sono andato a cambiare le ruote da davanti a dietro, mi ha messo l'equilibrazione, me l'ha portata a 400 e cosa, e mi ha messo i sensori, mi ha regolato e me li ha messi a posto lui. Infatti ce l'ho la spia, ce l'ho anche io quella lì nelle gomme. Nell'altra macchina non si sono mai accesi. Ma anche la temperatura, il caldo e il freddo lo fanno. Adesso ma guardato, la pressione era giusta, cioè non c'è bisogno manco di gonfiare, è giusta, tutte e quattro giusta. Non resettiamo adesso, è sicuramente il freddo che l'ha fatto impazzire, perché i sensori soffrono molto del cambiamento di temperatura. No, io c'ho le gomme da invernali, che non sapevo io che non si potevano, faccio la Genova mi ha fatto vedere il decreto che si possono adoperare anche prima delle, infatti queste ce le avevo, quando l'ho comprata ce l'aveva le gomme invernali, ce l'aveva ancora, e le devo cambiare ad aprile, le devo cambiare, le devo togliere quelle gomme lì, infatti ci sono buoni, mi ce li brucio i gomme. Ma scusa, io le macchine quando tu le compri escono con le gomme stive, Io l'ho avuto sempre con le gomme, però non hanno mai dato problemi. Questa quando è arrivata da fuori è arrivata con le gomme invernali, è arrivata. E invece chi ce l'aveva prima adoperava le gomme invernali, oh. Secondo un dire andiamo quasi a freddo per va via le gomme invernali. Beh, magari nevica la zona dove era, non so di dove fosse, ma. Cazzo, già ce ne vogliono, nessuno di noi mi costa nei 200 euro l'una, io vabbè, ne ho comprate quelle quelle estere, dai. Però sono buone, quelle lì, io ne ho avute già altre macchine e vanno benissimo. E quelle lì costano 100 euro, costano la metà, però se vai a comprare quelle Pirelli o Kleber o costano un bel di nato. Se si va giù sotto, costano un bel, costano 200 euro l'una, costano, quelle che c'ho sotto io. E così lo so, quelle di marca costano così, le fare sto, tutte così costano. Se io ho 225/17, sono ben larghe le mie. 225, 50, 17, quelle che ho io, e V9, è precisare invece. Ma questi sono bassi, sono gomme basse queste che ho io. Anche le mie. Cazzo, penso un poco, ho bisogno di cucciani. Oggi trovo, abbiamo un giambo più forte, il giambo delle cose, dei bongoli come se devo pulire, bongo più alti. Io da poco ne ho cambiato, perché ho preso un fosso lì a Prendanieta, ma ha crepato la parte laterale, erano nuove, le gomme appena cambiate, tutto il treno di gomme. E praticamente una mi perdeva e l'ho dovuta cambiare, e siccome non ce l'avevano uguale le ho dovute cambiare tutte e due quelle di davanti, perché non si sa se devono essere uguali, e ha giù pesato 200 euro. Certo, penso un po' più. No, io quando sono andato da gommista, quello degli punti, ha detto il prossimo anno a aprile, quando viene, gli mettiamo un paio di gomme come quelle buone che gli avevo messo nel cascaio. Ha detto, noi vai un pregio buono, però, non ti preoccupare, non ti ho mai trattato male. Quindi. E con la gentilezza ti abbonerei a Daritto. Sì, no, ma io prima, anche se non ho nel giambo, prima me ne vai a vedere, se no non ho nel giambo io da Edo, certo, mi vuoi assai, no, piacerebbe demennando. Io sono un po' particolare, io scelgo anche il disegno della gomma, se c'è un disegno che non mi piace non la prendo. Ah, questa è che c'ho sotto, invernali, mi ha detto, dice che metto di entra piano in curva perché sono scivolano queste, non è che tengono molto. Questo disegno qua scivola, sono quelle che hanno con la punta in mezzo, sono. Con la punta? No, le mie sono rigate, hanno le righe grosse. Magari voi siete stati con le righe, con le righe, faccio queste hanno la riga in mezzo, hanno. E tu tirare all'indietro come capelli. Ah, infatti chi so che sono così scendi, ha giusto, chi so che è entrato veloce l'altra lì, è andata tranquilla la macchina, ma a meno che non, ma che fai quando fai ghiaccio, ecco cosa è. Tu non hai città che striscia la macchina, se ti hanno detto di non farla chi lo sa niente, ma devi stare sempre a cambiare le gomme, ma non le metti 4 stagioni, se proprio non ti fidi. Le metti in 4 stagioni e vanno bene per tutte le stagioni. Infatti, quello che mi faccio fare, io gli avevo detto, quello che mi aveva messo nel cascaio, tutte le stagioni erano, quindi, mi ha fatto pagare 300, ho pagato 340 euro, ho pagato, con la convergenza, no, 330 euro, ho pagato con la convergenza. E le cambiate tutte e quattro? Tutte e quattro le ho cambiate, a chi gli si dà rete erano già partuti, non si viene più. e ho dovuto cambiarle tutte e quattro. Ma il cascale è venduto? Marciatolo! Ha ritirato, mi ha dato 5.000 euro per il cascale. Oh, sotto c'aveva tutto il coso che il semiasso da cambiare e altra cosa da cambiare c'aveva. Figuriamo un montone di na, ha detto oh, non ne spendo altro subito. Oh, ma guarda, ormai ma ieri non mi ha dato, mi ha fatto vedere questa macchina, mi ha preso questa. Solo io volevo la cosa, la Puma, mi stavo prendendo. La Ford? Della Ford. Quasi 15.000 euro veniva. Vabbè. Sembra bene quella lì, ma te l'ha fatta comprare il suo genero. Mi ha fatto comprare lui, so che devo stare attento al filtro antiparticolato. Non mi ha detto una batteria, però è il filtro antiparticolato. Ogni tanto mi esce start, da controllare. Adesso so il difetto e so come eliminarlo. Poi hai queste macchine elettroniche che erano sempre una, mi spendo una spesa e ne accendo un'altra. Prima guarda, quando ero con 127, notte 50, non si andava mai nuda, li mettevi olio, li mettevi, li facevi i tagliati, la benzina e la macchina andava sempre, senza accendersi nulla, ma se accendevi sempre tutti i sensori che non funzionano, guido che dà, è sempre un casino. Poi non c'è gente molto preparata in queste cose elettroniche, non ne comprende di nulla, io ho capito, se va in continente magari sì, ma io non ne comprende di nulla. No, qua il mio genero mi ha detto, dice, stia attento alla batteria che vuole fare un po' di strada, ma io gli ho compreso cosa mi era dicendo. Cioè, mi ha detto di fare un po' di strada e farò filtro antiparticolato. Ha detto, invece questa che c'è nel palazzo, che c'è il cascai nuovo, c'è sotto controllo lui con una torre che si attacca sotto e te la tieni sotto controllo e tutto. Cioè, quest'altro mi ha detto, dice, dalla concessionaria mi ha detto, dice, l'unica cosa che devi fare la mattina è lasciarla scaldare un pochettino e vedrai che ti dà l'ok, ti dà, quando l'altro ti dà l'ok, ti dà, ti dice ok e tu puoi partire tranquillo. A me praticamente mi si spengono tutte le spie, io me ne accorgo da quello, io lascio scaldare lo stesso prima di partire, non dico tanto, però faccio spegnere le spie e poi parto piano piano senza tirarlo all'inizio, poi una volta che è scaldata ho anche tirato. No, a me ce n'ho una che mi segna il pedale del freno, mi segna. Quando schiaccio il pedale del freno sfalisce per metterla in moto e poi schiacciare il tasto. Ma tu non metti in moto con le chiavi? No, chiave non ne ho, c'ho il telecomando. E il telecomando lo devo usare per aprire, però devo schiacciare il freno, devo schiacciare e schiacciare il pulsante. E se pone dopo di 2 secondi si mette in moto. Ah, ho capito. Vabbè, adesso sono tutte particolari. Sì, c'è anche un'amica mia che c'ha la Clio nuova, praticamente si mette sempre questo telecomando in morsetta, come si avvicina si apre da sola la macchina, poi si allontana e si chiude, si il freno a mano non è, praticamente tutto elettronico, si blocca quando spegni la macchina col pulsante che la accendi, la spegni pure. Una volta che tu la spegni si stacca e si attacca anche il freno a mano automaticamente. No, io ce l'ho il freno a mano, da me c'è il freno a mano, prima di spegnerla devi tirare il freno a mano, devi tirare e la macchina rimane ferma, devi muovere il coso, lo devi mettere sulla P e spegnerla. Ma automatiche le marce sono? Sì, è automatica. Infatti, dalla P, se il bottone è indietro lo può mettere sulla R, retromarcia. Poi la devo portare sulla D. Sulla D puoi partire. Per il centro della marcia c'è la frizione sempre. Ma è diversa la frizione, non è come quella del cambio, è diverso, e mi pare che sia la frizione sia con olio e un'altra cosa, mi pare di vermizio. No, ma pedale della frizione non ce n'è. No, non ce n'è, infatti Rubelli lo deve appoggiare in questo coso qua per non andare in mezzo vicino al freno. Ho capito come c'è il poggiapiedi, è un rialzo, dai. Vabbè, sono tutte macchine nuove, nel senso di fattura sono nuove, poi magari può avere i suoi anni. Quanti chilometri ha? 148 km mi ha fatto avanti ieri. 148 direttamente. 148 direttamente. E più 148 e 26 km. Quelli che hai fatto tu, ma io sto dicendo totale di chilometri, quando ne hai conta chilometri, 100.000. Più di 100.000, sono 148.000 chilometri. 148.000 e 76 dovrebbero essere. Per 148 chilometri, cazzo, 148 non è niente, 148.000, adesso ci siamo. Vabbè, ma tu sei diesel. Adesso tra poco mi ha detto che c'è un gasolio che con la macchina mia lo può bruciare. Che cosa di me? Che costa un bel di manco. Ma la macchina a gasolio dura un bel. Se ha problemi al motore, quando hanno problemi al motore spendi un bel di soldi, però dura un mese o tre. Ma quando là avevo fatto la catena di distribuzione, che c'era la catena, ho dovuto lasciare da una settimana fino a che non arrivava il tappo della catena, perché era gliel'ha messo male e perdeva sempre olio. La Genova l'ha fatto arrivare e mi ha messo tutto il coso, questo collante, questo mastice rosso, gli ha fatto il coso e me l'ha fatto bene e non perdeva più olio, però come te motore camminava un bel, il 200 ti riducava. Quanto è di cilindrata? Questa qua, 1500. Che cattara, che non già andava, cioè, abbastanza veloce, là. Sì, veloce, però il cascare che c'avevo era ancora più veloce perché era 1600 era. Ma è più pesante, il cascare è più pesante. Sì, sono stato più pesante, però era veloce. Ho già visto che come spunto era veloce. Era. Hai visto queste macchine cinesi che stanno facendo adesso? Sono ben belle. C'è una che abita nel mio palazzo e parcheggia a fianco a me, non è parcheggio, ce l'ha a fianco al mio. Ma non sai quanto è bella, rifinita bene, c'è di rimpelle, tutto, c'è tutto, c'è sensori, la telecamera, ha tutto. Solo che su internet questo carrozzere ha detto sono belle macchine, rifinite anche bene, però se vai a cercare un pezzo non lo trovi, non ne stanno facendo di pezzi. Cazzo, se devi dire elettrica, o elettrica o ibrida, tu voglio dire... No, questa qua non è ibrida, questa che ce l'ha sotto casa non è ibrida, è normale, è benzina mi pare. Se è benzina o ibrida, perché stanno arrivando adesso, quelle giapponesi sono ibride, o ibrido o elettrico. GM è di marca. Sì, è così, allora sono ibride, insomma. Perché sono andato a chiedere io. Ma maestro, se la vuole cambiare, ma io gliela do subito, mi gliela valuto subito questa qua. Oppure si ritira la sua nuova, dopo una settimana. La GM volevi prendere. Questa che c'ho adesso, mi ha chiesto a vedere se la stavo versando, mi faceva un buon prezzo, mi faceva, agito, mi era di 12, non la do, agito, anche di più si vale. Visto, tu l'hai pagata 12. Il coso con le 5.000 euro che mi ha dato lui, ho pagato, mi è venuto 8.000 euro. Vabbè, ma sei a posto, cosa dire di non tutti i giambana? Ma è per me no, è mia moglie che dice che è troppo bassa, ma è da posarsi. Perché è abituata all'altra. Quella che sono andato a vedere io è tipo SUV, 17.000 euro. Ma per essere un SUV non costano molto, capito? Confronto agli altri SUV non costano molto. E sono abbastanza, questo carrozzeretto che sono rifinito bene, anche l'interno, tutto quanto rifinito bene, guarnizioni belle, grosse cose. Però c'è questo problema, se non stanno facendo ancora i pezzi perché sono troppo nuovi come macchine, capito? Non si trova, se ti sbatti, se può addrizzare, non addrizzare, se non si può addrizzare, si è fruttito. Oh, lì fa, che va giù, è tutta in plastica. Hai visto una crescita di... Ah, quando mi trovo banco di Laredo, che mi hanno educato, nel parafango, la parte mia, ma hanno raschiato un po', ed è in plastica, è la plastica, devi fargli un po' carino. Infatti mi ha detto il carrozziere, lasciala così per il momento. Quando c'hai qualcosa altro di più, lo mettiamo in mezzo e te la scaldo e te la faccio ritornare come era prima. E a te che devo andare, dai, che te mi sta chiamando, c'è l'8:15, così. Ehi, mi bello la pastiglia e mi così fa che cosa va a mangiare. Bene, buona ricerca, allora buona carica quando la fai, dai, ci sentiamo. Ok, già, ci risentiamo alle prossime, ok. Altrettanto comunque, alla ricerca. Grazie, ciao.